2010, MacBook e studio, vediamo solo questa merda. Faccio la mia merda senza vincoli, vi vedo troppo piccoli. Non voglio una puttana nella grana, non mi appindoli. Non ho le vostre indoli, non ne presento i sintomi. Non faccio i vostri singoli, c'ho basi con i cingoli. Di te mi frega niente, chi mi segue ciecamente sa che sono un decadente. Nella mente ho solo simboli, mi sbatti sugli spigoli, me non te ne di vincoli. Nella vita un'autostrada in contromano senza svincoli. Senti il beat, dimmi ti dimentichi o diventi sì. Non c'ho manco 20 kick, eccoti il mio identikit. Tu fai i rigori, poi se fai due tiri muori e di coglioni non li tiri fuori. Marco se ti metti il beat, ogni mia parola disonora in freestyle. E lascia l'amaro in gola tipo un'ora al cream pie. E li fammi lì sfratto, piazzo il C4, punto un M4, alt F4. Per tutto ciò che ti ha tolto, per tutto l'odio nel volto, per tutto l'oro del mondo, faccio solo questa merda. Per il ministro che ha torto, per ogni Cristo che è morto, non me ne infischio e risorgo, faccio solo questa merda. Per tutto ciò che ti ha tolto, per tutto l'odio nel volto, per tutto l'oro del mondo, faccio solo questa merda. Per il ministro che ha torto, per ogni Cristo che è morto, non me ne infischio e risorgo, faccio solo questa merda. Scrivo rime che costituiscono il mio patrimonio mitico. Le tue tra un po' finiscono come il petrolio libico. Ogni mio versetto a tempo, franco mandamento biblico. Disperazione a rotazione in andamento ciclico. Io sono un ateo cinico e pretendo l'estinzione di chi crede alla superstizione. Sta nel paleolitico, come voglio morto ogni apolitico che non prende parte nell'insieme, però si ritiene un critico. C'è prima chi mi manda in cima, dopo chi mi manda al rogo. Giro questa canna prima, fumo questa canna dopo. Tu vuoi fare Totorina, ma fai la fine del topo. Scrivo questa merda in rima senza né fine né scopo. Tu chiediti perché i testi svuotano il cachet, i versi infuocano il parquet, questi invocano il parquet. Resti umani tra l'infame, gli automi prodotti in serie. Resuscitiamo i morti sepolti dalle macerie. Per tutto ciò che ti ha tolto, per tutto l'odio nel volto, per tutto l'oro del mondo, faccio solo questa merda. Per il ministro che ha torto, per ogni Cristo che è morto, non me ne infischio e risorgo, faccio solo questa merda. Per tutto ciò che ti ha tolto, per tutto l'odio nel volto, per tutto l'oro del mondo, faccio solo questa merda. Per il ministro che ha torto, per ogni Cristo che è morto, non me ne infischio e risorgo, faccio solo questa merda.